Una studente alla fine del liceo, perché stai qua? Sono qui perché trovo ingiusto tutto quello che sta succedendo sia in Italia che in qualsiasi altro paese nella quale le donne non vengono rappresentate giustamente né dalla politica né dalla società, sono trattate in modo inequo e questo va data una voce a questa ingiustizia. Siamo qua tutte e tutti per manifestare contro questa ingiustizia che non può essere lasciata inosservata. E la scuola com'è? C'è spazio per tutto questo? Ci potrebbe essere lo spazio se qualcuno ci si impegnasse, se qualcuno motivasse queste, desse una voce in più. All'interno della scuola la volontà c'è, non c'è qualcuno che però dia il via. Ecco. Ma la volontà c'è da parte di chi? Delle studenti, degli studenti, del corpo docenti, di chi? Da parte di tutti quanti, soltanto che finché non c'è una figura di riferimento che appunto possa dare inizio a una... cioè noi adesso siamo un collettivo scolastico che è qua, non per forza che aderisce al collettivo, ma come scuola siamo qui per rappresentare appunto il nostro corpo studenti, e ci sono anche dei docenti, quindi da parte di tutti è l'iniziativa. Grazie.